stress e drink, linfa vitale sul beat. Io impresso in un codice a barre, forbice a sbarre, carta assorbente, zolla di terra, palazzo nel verde, pupille riverse, simbiosi nel ventre, scritte in latino, topo nel tombino, sfrego la lampada di Aladino, pillole virgole nell'intestino, briciole indole d'assassino, sciolgo l'anice, giro macine nel mulino, righe verticali come scimitarre nell'ecosistema. Sotto come tarme, sfuggo dallo schema. La monetina la tocco col mio indice, mentre gratto con la pietra pomice. Telepatico sublimo le politiche, nell'invocazione sedute spiritiche. Il governo bisbiglia fraterno e Caronte all'inferno. Bisonte nel tempo, numero pentola di una batteria. Fazzoletto caldo durante l'autopsia. Ho lo sguardo scavato, psicotico, squinternato sotto antibiotico. Non disturbarmi nel liquido amniotico, vedo rosso il verde dal tonico. Ho lo sguardo scavato, psicotico, squinternato sotto antibiotico. Non disturbarmi nel liquido amniotico, vedo rosso il verde dal tonico. Impresso in un codice a barre d'alieno, sepoltura mistura di veleno, farfalla di calce, palla di fieno, taglia la falce, dov'è l'arcobaleno? Un operaio caduto a pian terreno, arrotolato in filamenti di tungsteno, la tartaruga, la ruga del seno, metropoli di latte in cui mi barca meno, psicodramma, nettare di sperma, comunità fantasma, grosso pachiderma, sono un'etichetta, nell'oculo una salma, un fiore in provetta, trapianto di plasma. Il governo bisbiglia fraterno e Caronte all'inferno, bisonte nel tempo, numero pentola di una batteria, fazzoletto caldo durante l'autopsia. Ho lo sguardo scavato, psicotico.